llama brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Guai temere il maneggio dell'uomo, del luogo comune. Maneggiare il luogo comune in realtà è una fonte inesauribile di impressioni sulla realtà che ci circonda. Dietro i luoghi comuni si celano realtà concrete, esistenti. Chi teme il luogo comune in realtà si perde gran parte della possibilità di portare in superficie alcuni ricordi che sono elemento costituente della nostra persona. Nei confronti dell'essere italiani, naturalmente, esiste un mare di luoghi comuni. Ho provato questa mattina a lanciare l'idea da quali elementi sia composta la nostra italianità sul mio profilo di Facebook, e sono venuti fuori, naturalmente, il solito florilegio di luoghi comuni: la pizza, il mandolino, siamo creativi, siamo capaci di vendere fumo, siamo capaci di mostrare di saper fare chissà cosa, non sappiamo fare nulla, sappiamo essere fieri del fare nulla. Insomma, questo è una prima divertente rassegna dei più superficiali dei luoghi comuni, ma in realtà l'essere italiani per noi è l'insieme di alcune sensazioni, sensazioni che nascono da prese di posizione visive, olfattive, uditive, tutta una serie di impressioni che ci ricorda il luogo in cui siamo nati, le persone che abbiamo frequentato, e ci fa capire che la persona che ha vissuto le stesse esperienze appartiene generalmente a qualcosa che possiamo definire l'essere italiani, perché questo ci ricorda un luogo comune, una terra comune, un elemento comune accanto al quale siamo cresciuti. Oggi se ne parla molto dell'essere italiani, da una parte per alcuni problemi che sono nati in Inghilterra per operai di una raffineria inglese che hanno protestato, scioperato, temendo l'arrivo di alcuni lavoratori italiani che mettessero in crisi il loro lavoro. Quindi ci rendiamo conto una volta che quello che noi stiamo sentendo come disagio, le nostre latitudini, viene avvertito altrove con persone come noi. Quindi è un senso comune la difesa della propria identità, anche se fosse soltanto mascherata o palesata esternamente dalla difesa di un luogo di lavoro. Poi abbiamo naturalmente alcuni tipi di difese proprio di queste sensazioni che fanno del nostro, della nostra esperienza personale l'essere italiani. La difesa della pizza o delle focacce locali contro il kebab. Le vendite di kebab nelle piazze, nelle strade italiane hanno snaturato quella sensazione che abbiamo di riconoscibilità dei luoghi a noi familiari. Questo fa parte della storia, fa parte dell'inarrestabile mix fra popolazioni. Poi naturalmente qualcuno resiste, qualcuno cerca di porre degli steccati, delle barriere. Oggi su Repubblica c'è un inserto proprio dedicato all'essere italiani, i luoghi comuni dell'italianità, di Paolo Griseri. Analizza alcuni blog di italiani che lavorano all'estero, che molto più magari delle statistiche, delle letture ufficiali, danno l'idea del pregiudizio dei luoghi comuni che si accrescono da altri luoghi comuni sul nostro essere italiani. Faccio un esempio per tutti: capita che molte volte venga domandato ai nostri connazionali all'estero: ma da voi ci sono le lavatrici? Voi in Italia potete permettervi di far studiare almeno un figlio? Avete il bagno in casa? Perché vedono queste, hanno visto queste notizie dei problemi legati allo smaltimento della spazzatura in Campania, e quindi penso che in Italia si viva in una specie di grande immondezzaio. Poi c'è una citazione da un titolare di un blog italiano, un italiano a Budapest, dove racconta di una pubblicità di una società telefonica a Budapest, appunto, fa vedere un campione di pallanuoto ungherese mentre si trova in Italia in trasferta, chiama la mamma e per chiamarla usa la chiavetta per la connessione internet. Poi questa scena è girata a Genova in un bassofondo genovese. In sottofondo si sente la tarantella, naturalmente, per dare l'idea, far capire che è in Italia, e la madre preoccupatissima dice: ti vedo dimagrito, ma stai mangiando? Come se nel nostro paese ci fosse una difficoltà oggettiva di potersi nutrire. Ecco, tutto questo è l'insieme della domanda di questa mattina. Non soltanto sfideremo i luoghi comuni, ma accresceremo, aggiungeremo, vi ricorderemo altri luoghi comuni su quali probabilmente non avete abbastanza riflettuto. 800 24 00 24, quali sono i segni inalienabili della nostra italianità. Con un tubo e un bacio puoi dire tutto. Impara il linguaggio dei tubi, così gli altri non capiranno un tubo. Comunque, adesso mi faccio un bel brodo. A prescindere, ma io me lo faccio doppio, è ovvio, no? Doppio sapore per minestre pietanze. Quel vecchio lupo di mare si sta facendo un espresso. E è facile indovinare, con la caffettiera Mocha Express. Quella che usiamo anche noi. Coppa del nonno Motta, nessuno come te. Noi siamo anche l'esito, il frutto di alcuni oggetti memorabili che hanno costellato la nostra vita, soprattutto noi che abbiamo ancora una memoria accettabile poter parlare di noi, perché siamo una generazione non ancora colta dalla demenza senile, ma si rende conto che il proprio essere italiani, la propria la materia prima che costituisce la nostra italianità, che è un termine che può sfociare fino alle più sublimi vette di retorica e può anche allo stesso tempo essere un elemento di detestabile autocommiserazione, noi cerchiamo in maniera asettica di analizzarlo per quello che siamo. Siamo italiani anche perché siamo il frutto di questi oggetti di consumo che hanno formato la nostra esperienza, l'esperienza di vivere questo paese, di parlare questa lingua, di riconoscere in altri simili dei caratteri di identità. Avete sentito alcune pubblicità lievemente d'antan, ma nemmeno troppo. Probabilmente questa stessa riflessione fatta fra 20 anni sarà costituita di altri oggetti di uso comune, di altri marchi, di altre situazioni che fanno sì che possiamo riconoscere una persona come un nostro simile soltanto perché ha mangiato la coppa del nonno, perché sa cosa sia la cedrata, perché è presente quel tipo di caffettiera con l'omino con i baffi, perché sa che il tubone pieno di cioccolatini con la nocciola che si chiamano Baci Perugina è qualcosa che gli ricorda fortemente alcune sensazioni che partono da quando lui era bambino, a quando era innamorato, fino a quando magari in età più matura un regalo, un omaggio di questo tipo improvvisamente gli riportano alla superficie un insieme di sensazioni, come la sua vita corresse velocissima nella sua memoria proprio perché quell'oggetto gli ricorda di aver vissuto qualcosa. Panini presenta Calciatori 88-89, da oggi in edicola, l'unica raccolta di figurine che ti racconta tutto sul tuo sport preferito. Dai, fai il tuo gol. Quando da Milano la Gazzetta lanciò la corsa al sol, la corsa al mar, tutti gli assi della bicicletta ebbero un sogno sol partecipare. Ciao, vuoi la merenda? Ti ricordi, mamma, quando eri bambina tua madre ti dava Nutella, come oggi tu la dai ai tuoi bambini. Già mi scrive Flavia su Facebook, dice: la gestualità Gianluca qui a Parigi, prima dell'accento mi riconoscono perché uso le mani quando parlo e mi piace. Altro luogo comune terrificante, voi italiani gesticolate, vi muovete. Il caffè in piedi, mi dice Cesare, la puntualità a tavola, televisione accesa tutto il giorno come se fosse una radio, le mamme apprensive, la stanza che continua a essere quella dei ragazzi, anche se ormai abitata da quarantenni, lo struscio domenicale, il calcio parlato, il Papa nei telegiornali. Poi un elemento dell'italianità visto da un paesino del sud, secondo me, la mentalità chiusa. Questo potrebbe dirlo qualunque abitante di qualunque provincia del mondo, probabilmente. Ma torniamo al punto, torniamo ad alcuni oggetti. È inutile fermarsi alle estrazioni, vogliamo concentrare sulla visualizzazione, anche sull'allucinazione di alcuni oggetti di uso comune che abbiamo tutti avuto per le mani, ho visto abbandonato su un sedile di un treno o appoggiato sotto l'armadietto delle riviste di una nonna, di una zia, o avuto proficuamente e intensamente tra le mani in momenti della nostra vita in cui per noi quella era la maniera migliore per passare il tempo. Qualcosa che appena vi citerò subito immaginerete: ah sì, questa certo l'ho vista, la vedete avanti con i suoi disegnini, con le sue rubrichine, con quel suo odore di carta antica che è rimasto incontaminato attraverso i decenni. La settimana enigmistica. Alzi la mano chi tra noi non ha pensato almeno una volta nella vita, per arrotondare la magra mancia del settimanale, di guadagnare 5.000 lire spedendo una barzelletta, rigorosamente inedita, alla rubrica Risate a denti stretti della settimana enigmistica. I suoi schemi di parole crociate hanno impegnato e impegnano generazioni di italiani. Gli intraprendenti affrontano con scioltezza il mitico Bartezzaghi. I più giovani si limitano a unire con una linea i punti della pista cifrata. Una dose quotidiana di cultura spicciola è assicurata da rubriche come Spigolature, Non tutti sanno che e L'Edipeo enciclopedico. Così, la rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazione da quasi 70 anni è presenza fissa nelle case degli italiani, stretta nelle mani di chi si appresta a un viaggio in treno o sporca di sabbia e olio abbronzante tra gli ombrelloni della riviera. Giulio Iacchetti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori. Allora, Giulio Iacchetti è l'autore di questa memoria, di questa Madeleine sulla settimana enigmistica, ma è anche il curatore di un libro dedicato proprio all'italianità. Italianità è edito dalla Correini Edizioni. Giulio Iacchetti è un progettista, docente design, e quindi ha una grande attenzione all'oggetto. Ecco, come le è venuto in mente di ricostruire degli oggetti concreti che partono appunto dalle progettazioni per indurre i consumi, per ricostruire poi l'italianità? E mi sembra molto efficace, perché vedo che le persone stanno reagendo immediatamente al richiamo dell'oggetto molto più che il concetto astratto, la cialtroneria italiana, l'essere volta gabbana, l'essere tutto mamma e cuore. La settimana enigmistica subito ci riporta una serie di sensazioni anche olfattive, i sensi sono subito coinvolti. Credo che il richiamo di tutti i sensi nei confronti di questo elenco di oggetti, colori, sensazioni che descrivono un po' l'italianità è la cifra per comprendere il mio lavoro. Io sono, giustamente lei citava il fatto che sono un progettista, è un ruolo un po' anomalo scrivere un libro, fare ricerche di questo tipo. Non è anomalo invece perché la curiosità fa parte del mio lavoro, quindi l'osservazione dei miei vicini di casa, delle persone che come me condividono il fatto che siamo nati in questo paese, che attorno a questi valori possiamo coagulare un discorso relativo all'unità, a sentirsi popolo. Senta, Iacchetti, lei che è proprio progettista, ha elencato gli oggetti che sono stati felicemente progettati, cioè sono state profezie efficaci, partivano da un'idea particolarmente felice, o è stata la fortuna che ha determinato, per motivi inconoscibili, di questi oggetti che li rende tali? Cioè, la settimana enigmistica, quando nacque, era un prodotto che si sapeva sarebbe stato adatto proprio a coagulare l'attenzione di tutte quelle nostre caratteristiche palesi o impalpabili che fanno sì che l'italianità sia andata ad appoggiare proprio a quell'oggetto, quella strana rivista fatta di quiz, di cruciverba, identica nei decenni, e però rimane sempre viva. Ecco, credo che il dato sensibile è la continuità di uno stilema, di un modulo grafico, di una scelta di impaginazione, una continuità stilistica anche nella testata, nella scelta del font, e magari scelte dettate da una sorta di pensiero economico, cioè non modificare perché è più comodo mantenere una linea, e alla lunga diventa invece un elemento caratterizzante. Io ho eliminato nell'elenco di questo libro cose, oggetti, odori, sensazioni che sono cambiati nel tempo. Ecco, io preferisco questa sorta di continuità che ci dà anche una certezza. La certezza di andare in edicola e trovare sicuramente tra le mille cose nuove che troviamo e mille cose che scompaiono la settimana enigmistica che procede imperturbabile. Sono infiniti gli oggetti, infiniti, sono qualche decina gli oggetti e le sensazioni che lei ha elencato in questo libro. Qualcuna ve ne faremo ascoltare, altre ve le leggo. L'ape car, l'ape, l'apetto a tre ruote, strumento della prima motorizzazione delle nostre campagne, il veicolo e allo stesso tempo piccolo camioncino, oggetto che permetteva di fare piccoli lavori. Quanti api ho visto rovesciarsi da piccolo, nelle curve troppo ardite l'ape si alzava con le ruote all'aria, almeno i primi modelli, l'ape 50, il biscotto bucaneve, la coppa del nonno, come già detta, il giornalino Diabolic, il calendario di Frate Indovino, alcuni di questi oggetti poi li sentiremo. Riprendiamo il filo invece con quelli che sono gli elementi comuni, non gli elementi eccezionali che fanno del nostro sentirsi italiani un motivo di riconoscibilità quando magari ci vediamo all'estero, quando magari cerchiamo dei caratteri comuni con le persone che ci circondano. Abbiamo detto sensazioni legate a oggetti di uso comune, sensazioni legate a input, a messaggi di prodotti che noi dovevamo consumare, ma consumando quei prodotti abbiamo costituito il nostro anche essere italiani. Donnina del Brodo Star. Il maglione a girocollo, il filo di perle, lo sguardo allegro e fiducioso, la donnina del Dado Star sorride dal 1968. È spensierata, giovane, non lavora. Ha un paio di deliziosi frugoletti che trotterellano per il salotto, si occupa della casa e del marito con uguale entusiasmo. Il mondo fuori la tocca appena appena, così come la polvere che instancabilmente spolvera ogni mattina non riesce a posarsi stabilmente sui mobili. È una donna felice, forse con qualche malumore, forse con i dolori di tutti, ma felice. La pubblicità che ci ha circondato negli anni della nostra formazione, la pubblicità che ha accompagnato questo paese nei momenti della sua più veloce crescita, anche nei momenti più difficili, fatta di volti che ci sembrano familiari, che non sempre erano volti che poi corrispondevano alla realtà che ci circondava. La figura di questa signora con i capelli sempre a posto, ben pettinati, che viveva e si immaginava impietrita per tutta la sua esistenza in cucina, io la ricordo con un cucchiaio in mano pieno di brodo, come se il brodino fatto con il dado fosse la quintessenza della felicità. Ma su questa voce della signora del Brodo Star ha riflettuto Elisa Massoni, giornalista che si occupa anche lei di design. Elisa, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, perché vedi la donnina del Brodo Star come uno degli elementi prustiani che hanno costruito la nostra italianità? Ma io ho fatto una riflessione molto molto personale. Essendo donna, ho sempre invidiato questa donna mitica che sorride da decenni oramai, come diceva lei, impietrita nel suo ruolo e nella preparazione del brodo. E cosa posso dire? È stata una riflessione che è proprio nata come istintivamente. Perché è una sintesi, ci pensa bene, di figura materna, accogliente, disponibile a sacrificare l'eterna sua esistenza per la famiglia, per il nutrimento della famiglia, e allo stesso tempo colei che fa di necessità virtù, in fondo da un brodino che è fatto di acqua ed estratto di carne, praticamente nulla, e con quello però riesce lo stesso a fare tutti felici. Ma è un po' il miracolo della mamma italiana, come ce lo sogniamo, perché non so quanti possono dire di aver avuto realmente una mamma così. Ci piace. Beh, di brodini ce ne siamo fatti veramente tanti, devo dire, almeno la mia generazione. Erano sani, erano buoni i brodini sani. Di dado. Era acqua calda, insaporita, con delle erbettine, si vedevano le fogline di prezzemolo, quello dava l'idea che fosse oggi qualcosa naturale, capito? Va bene, grazie, io ringrazio, intanto che devo dare la linea alle informazioni per la borsa, ringrazio Elisa Massoni, ringrazio anche Giulio Iacchetti, curatore, ricordo, del libro Italianità, Corain Edizioni. Quali sono i luoghi comuni, quali sono i sapori, gli odori, i ricordi che fanno sì che noi possiamo sentirci tutti italiani? Certo, orientarsi tra i luoghi riconoscibili dell'italianità, secondo questo libro che abbiamo in mano, curato da Giulio Iacchetti, fa rivenire fuori probabilmente di elementi che si erano abbastanza sopiti a nostra coscienza. Fra i tanti autori, perché ogni autore cita un oggetto, cita un luogo comune, cita una frase, cita uno stato dell'esistenza. Tommaso Labranca cita le frasi dei film di Fantozzi. Ancora c'è qualcuno che dice quanto è buono lei, capita, sempre più raramente. Una volta erano molto usate. Negli anni 70 mi si sono incrociate le dita e cose del genere. Facciano parte del lessico quotidiano, dalle scuole medie fino agli uffici e agli alti livelli dirigenziali. Oggi si è un po' perso, perché si è un po' perso Fantozzi, se non in alcuni canali satellitari dedicati al B-movie italiano, ma in realtà è una grande commedia italiana. Poi non so, alcuni marchi, il cagnolino a 6 zampe dell'Agip, quando ero piccolo ne avevo uno di pezza, mi hanno regalato, era un gadget di qualche pompa di benzina, non so, e mi impressionava molto, non lo vedevo come un cane, lo vedevo come una specie di drago. La sambuca con dentro il chicco di caffè si usava molto nelle province, nelle campagne, si vedeva nei bar, nelle trattorie di paese, prendere a fine pranzo la sambuca con un chicchetto di caffè, e noi bambini davano il chicco di caffè da sgranocchiare. 800 24 00 24, stiamo facendo un viaggio in profondità attraverso quegli elementi che hanno costituito la nostra italianità, vi piaccia o non vi piaccia, ma è così. La festa dell'unità. Le bandiere da lontano si muovono nel vento ed è una scena antica. Le vedi sui capannoni ai margini delle zone artigianali o all'entrata di paesini con meno abitanti dei partecipanti. Rosse di vivo cuore, passione, amore, fuoco, sangue e vino. Alle feste dell'unità a volte si ascolta qualcuno che parla, a volte si suona, si canta, si balla, ma soprattutto si mangia. Perché mangiare è un gesto umano, conviviale, che unisce più di 1000 parole, mani e volti di donne e uomini alle prese con lo scolapasta e i fornelli traballanti, i carboni ardenti e damigiane ardite, piatti di plastica che si piegano sotto il peso bollente del cibo e bicchieri di carta che il vento fa volare. Festa dell'Unità, manifesto italiano di umanità. Virginio Briatore, filosofo del design, studioso dei linguaggi contemporanei, si occupa prevalentemente di life design, quello che ha messo il suo biscottino del ricordo nelle feste dell'unità. Buongiorno Briatore. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Lei ha detto addirittura piacerebbero a Kurosawa le feste dell'unità, ma ha un'idea molto, molto d'antan delle feste dell'unità. Oggi sono una cosa tristissima, c'è un senso di disfatta terrificante alle feste dell'unità. Queste bandiere rosse spiegate al vento, io non le vedo più da molti anni però. Probabilmente, in particolare nelle grandi città, questo effetto così di lontananza e anche di piccolo accampamento si è andato perso, però se lei ancora gira per i paesi più piccoli, no, di questa Italia di 8000 e passa comuni, là vicino ai campi di calcio, non lontano da una chiesa, ancora oggi trova questi piccoli assembramenti estivi in genere, no, in cui le persone si ritrovano per mangiare un boccone la sera e stare vicini proprio, e le bandiere che hanno cambiato nel frattempo colore, perché questa è anche la storia, l'italianità si rifà continuamente, è fluida, no? L'aveva presente Sogni di Kurosawa, quella meravigliosa, certo, visione. Certo, ho presenti anche le tende mongole, no? nella grande distesa di erba, dove i guerrieri che si appartavano mettevano un alto stendardo con la bandiera al vento per segnalare la loro presenza, il loro desiderio di intimità. Le bandiere non hanno smesso di sventolare, se le va negli Stati Uniti la bandiera è ovunque. Ma forse si appartano anche un po' meno alle feste dell'unità. C'era questo, diciamo, ricordo olfattivo di odore di salsiccia sulla piastra e di ofori di sudore, di questa promiscuità dei balli, si era tutti compagni, tutti amici, erano, io non ci sono mai andato, tutti compagni, tutti amici, c'era questa grande libertà in cui anche la promiscuità faccia parte di un messaggio politico. Forse anche questo fa parte di un struggente ricordo del passato. Poi diciamo che la mutazione è evidente, no? Anche quella, no? quella collante ideologico non c'è più, ma resta il fatto che un modo di vivere, no? Legato da questo rituale serale in genere, dove ci sono alcuni elementi molto simbolici e molto antichi, questo in qualche modo è, come dire, permanente nella mutazione, perché è normale che non sono più le tende come c'erano anche soltanto 20 anni fa, ora ci sono le strutture, no? Ci sono le tenso strutture. Se ci sono delle complessità che a volte, come lei dice, sono anche più tristi, ci sono le luci al neon. Ma se lei vive, anche perché mi permetta, sotto la tenso struttura è come un luogo nomade, può esserci qualunque cosa, possono vendere computer, fiera, aspirapolvere, no? Qualunque chiaro, cosa. Chiaro. È come la fiera. Però, come dire, noi in questo percorso che Giulio Iacchetti ha voluto tracciare, non ci sono verità eterne, no? È una panorama dell'italianità che ha senso negli ultimi 50 anni e che fra 50 anni altri dopo di noi proveranno a ritarare, no? Alcune certo. cose si sono perse, alcune si vanno perdendo. Quello che è rimasto di queste feste dell'unità non lo so, perché anche io, come è un po' di tempo che non ci vado, ma le ho continuate a vedere anche in questi anni, anche l'anno scorso, anche se non ci sono più andato per tanti motivi, no? Però ci sono ancora, e il fatto, e poi ci sono anche feste di altri che mi hanno, nell'amicizia, di altri movimenti politici che riprendono la stessa fattura. Però diciamo che il modulo iniziale costitutivo di quel tipo di festa, poi possono avere bandiere verdi, azzurre, rosse, gialle, di qualunque colore, è la festa unità, l'hanno inventata loro, la salsiccia, il ballo, il panino, il format è loro. Grazie, buongiorno Davide. Buongiorno. Davide, qual è la sua Madeleine, il suo ricordo? Voglio dire, di ricordi ne ho parecchi, però uno che mi è rimasto impresso e ancora oggi me lo ricordo è quello del formaggino mio. Perché se lo ricorda, vediamo. Un corso radiofonico in cui dicevano: date un nome al formaggino, a un formaggino e guadagnerete 1000 lire, mi sembra che una cifra così. E il nome che fu scelto fu mio, e rimase il nome formaggino mio. Dunque, il formaggino mio, per la Galbani. Negli anni 50-60. Era ambito rispetto agli altri formaggini, non tanto per la qualità, che non ricordo le differenze, cioè, perché aveva delle figurine che muovendole cambiavano immagine. Adesso non so esattamente qual è il termine tecnico, ma erano miracolose per noi, non avevamo ancora le console portatili per fare i videogiochi, quindi collezionavamo le figurine del formaggino mio, che cambiandole c'erano delle immaginette semplicissime, avevano due possibilità, e questo ci sembrava qualcosa di meraviglioso. Oscar, buongiorno. Buongiorno. Sì, la sto ascoltando, anche lei, qual è il piccolo tassello che la fa sentire italiana? Io non la sento al telefono, quindi parlo in viva voce. Parli in viva voce, sì. Se lo mette vicino all'orecchio, però pare più probabile che lo senta. Va bene. E niente, volevo parlare della settimana enigmistica, che per me è stata una rivelazione più di 50 anni fa. Perché i miei nemici erano Bruno Pozzoli, Battesaglie e compagnia bella. Quando riuscivo a finire una di queste parole crociate, per me era come una vittoria, anche perché, essendo di madrelingua tedesca, mi ha aiutato moltissimo a capire, a imparare terminologie italiane che non conoscevo. Quindi lei, diciamo che ragione di più che la settimana enigmistica che abbiamo collocato in questa rassegna di oggetti di consumo che in qualche maniera ci ricordano l'essere italiani, in più è stata anche fattivamente, concretamente lo strumento per sentirsi italiano, perché ha imparato la lingua. Bene, Mauro, buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei ricorda un'altra cosa che ricordo anch'io? Io ricordo le marmellatine cotogne. Le cotognate Zueg. Le cotognate Zueg, che a quel tempo c'avevano anche un francobollo, mi pare. Certo, come no, facciamo la collezione. Erano parallelepipedi di gelatina dolcissima che spaccava i denti, stucchevolissima. E la variazione erano semplicemente delle nuance di marrone fra le cotogne e la pesca. Era sempre robetta marrone gelatinosa. Però, cioè, certo, c'è una grande differenza. E ma queste se le ricordo. Ancora? Esistono. Sì, le ho ritrovate, l'ha ritrovata mia moglie, coltrutta inglese, per cui non c'entra niente con questo. Con il francobollo dentro? No, senza francobollo. No, perché erano francobolli dell'epoca del gronchi rosa, cose del genere. Assolutamente. Devo dire che quando me l'ha ricomprata mi sono ritrovato bambino e me le sono gustate veramente. Senti, io ricordo ancora il segno clandestino dei denti che morsicavano la marmellatina Zueg e poi la lasciavamo lì. Che erano un segno indelebile che eravamo passati da quelle parti. È vero. Oggi penso se io dessi a mio figlio una cosa del genere me la rifiuterebbe, perché veramente era un dolce esagerato, era quel dolce che non ci aspettavamo, perché eravamo stati infarciti di ricordi di guerra in cui lo zucchero si comprava la borsa nera, quindi affondare le nostre carie infantili in quel vituperio di dolcezza ci sembrava meraviglioso. 800 24 00 24, stiamo parlando di alcuni oggetti, di alcune suggestioni, di alcune sinestesie, lo diremmo con un termine legato alla poesia, cioè di alcune situazioni che ci sollecitano contemporaneamente tutte le nostre percezioni sensoriali. Vedete, sono cose che riguardano il gusto, con le malatine Zueg, riguardano il punto di vista, come la mamma sorridente del Brodo Star, riguardano sensazioni tattili, come ad esempio, non so, la settimana enigmistica con la particolare carta che scorrevamo sotto i polpastrelli, e andando avanti. Mi scrive Krim su Facebook, dice: come mai è possibile che un designer contemporaneo non venga in mente un'italianità un po' più contemporanea? Forse ci siamo così globalizzati? Io non credo, credo invece sia giunto il momento di smettere di rititare sempre le stesse italianità di ieri, andando a cercare altre, magari un po' più di oggi. Evidentemente la risposta è data da sola, perché evidentemente quelli di cui stiamo parlando, oggetti che con una sorta di senso di snobismo noi teniamo distanti e fingiamo non appartenere alla nostra esperienza e alla nostra formazione, sono quelli che sono sufficientemente intrisi di esperienza comune per poter entrare nella piccola storia delle nostre sensazioni. Non esistono ancora oggetti contemporanei che, sui quali si è stratificata una storia sufficiente perché possano entrare in questa rassegna, ma come avevo detto è una rassegna aperta, la scriveranno i posteri, la pagina seguente al Brodo Star, alle Marmellatine Zueg, alle Settimane Enigmistiche, alle Frasi di Fantozzi e anche a quello che state per ascoltare. La T di Tabacchi. Con le città che rapidamente creano riserve indiane per fumatori, mentre intossicano i bronchi lasciando gorgheggiare un miliardo di motori, la T di Tabacchi somiglia sempre più alla luce rossa che nelle città portuali un tempo annunciava i bordelli. Oggi la T di Tabacchi se ne sta spesso schiacciata, costipata in mezzo ai logotipi del Lotto, del Super Enalotto, del Tris e del Totip, e insomma di tutto quel commercio che non allude ad altro che a quel che genera: soldi. Ma c'erano giorni in cui la T di Tabacchi era l'anticipo di un piacere proibito eppure patrocinato e dunque più dolce, come il profumo di un genitore benevolo che, strizzandoti l'occhio, ti dia un buffetto di rimprovero perché stai fumando la sigaretta che lui stesso ti ha offerto. La T di Tabacchi, io ricordo un programma televisivo di qualche anno fa di Pietrangelo Buttafuoco, mi sembra su Italia 1, Sali Tabacchi. Era un percorso nella provincia italiana proprio legato a questi luoghi in cui si vedeva contemporaneamente i prodotti di monopolio, il sale, i tabacchi. Oggi non esiste più nulla del genere, perlomeno è lontano dalla memoria delle generazioni ultime, ma la T di Tabacchi sì, quella T che segna il luogo oggi del vizio. È divertente pensare che la T di Tabacchi sia stata dall'autore di questa scheda, che è Matteo Baldi, che è un redattore di Radio Alt, messa in collisione con la luce rossa del bordello, quasi che ormai fosse un luogo dove si consumano piaceri assolutamente condannati. Matteo Baldi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Perché ti è venuto a me la T di Tabacchi come qualcosa che contrassegna fortemente il ricordo dell'italiano? Ma, diciamo che la T di Tabacchi è il riassunto di un atteggiamento contraddittorio da un certo punto di vista, nel senso che il monopolio di Stato eroga e quindi concede il piacere, il vizio del fumare, e al contempo lo stigmatizza oggi in tutta una serie di comportamenti sociali che vanno dalla esclusione dei fumatori da tutta una serie di contesti, di situazioni pubbliche. Quindi quello che era un luogo di aggregazione e di piacere lecito, anche di ansia di mostrare uno status, la sigaretta in mano, la sigaretta tra le labbra, in tutta la narrativa visionaria dagli anni 50 fino agli anni 90, diciamo, ha rappresentato comunque un simbolo di carisma. Si fumava apposta, un po' per far vedere i pacchetti di sigarette con la marca bene in vista, in una lettura del product placement anteguerra quasi, e un po' anche perché la sigaretta dava carisma. Oggi la sigaretta significa emarginazione, fumare significa luogo di emarginazione, e la T di Tabacchi corrisponde al luogo in cui si consuma miseramente un vizio, però nella sua forma migliore era il posto dove si andava a comprare le sigarette, a volte anche le sigarette sfuse, quindi era il luogo dell'iniziazione dall'età infantile all'età in cui si diventava uomini. Certamente, certamente. Ma intanto devo dire che tutte le riflessioni che io potrei fare in merito sono viziate dal fatto che sono un ex fumatore, quindi guardo con una certa nostalgia ai tempi in cui mi andavo ad approvvigionare nei negozi di tabacchi. Oggi non è più così, però comunque questo non mi impedisce di vedere come per esempio le sigarette nell'immaginario collettivo abbiano subito una triste parabola una volta, come diceva lei. Triste, tutto sommato, visto poi non fanno tanto bene. Sì, non fanno bene come non fanno bene gli scarichi delle macchine, a cui accenno in apertura del pezzo che ho scritto per il libro Curato da Iacchetti. Non fanno bene un sacco di cose che però socialmente vengono stigmatizzate meno. Non so, mi viene in mente il vino. Certo, non so come dire. Verissimo. Adesso le cose sono cambiate, e però non sono cambiate al punto da dare la merce sigaretta tabù. La merce sigaretta continua ad essere venduta, continua ad essere consumata, e però è oggetto di una sorta di ostracismo sociale. Devo dire che la T di Sali e Tabacchi, le insegne delle rivendite di Sali e Tabacchi, riassumevano anche degli accostamenti merceologici strani, perché assieme alle sigarette veniva venduto anche per esempio il sale, che era un prodotto di monopolio, o altre cose. Quindi ci rimanda un'idea, a un'idea quasi da strapaese, un pochino, insomma, pre-boom industriale dell'Italia, alla quale è difficile non guardare oggi con un po' di nostalgia, anche se forse non è giusto. Sì, oggi se potrebbe sembrare del tutto singolare andare a comprare il sale assieme alle sigarette. Sono due generi che sembrano non avere assolutamente contiguità, ma allora il sale si prendeva in tabaccheria, si prendevano un pacchetto di sigarette e un pacco di sale grosso per fare la pasta asciutta. Il calendario di Frate Indovino. Era un'epoca in cui il telefono era un dignitoso elettrodomestico, nero e pesante, collocato all'ingresso. In cucina, proprio sotto il rametto d'olivo benedetto e seccato, stava appeso il calendario di Frate Indovino. I genitori lo consultavano per oscure previsioni lunari: quando imbottigliare il vino, quando vangare l'orto, quando seminare quella certa verdura o travasare una pianta. Non potevamo sfuggire al richiamo del frate. Le sue storie, i suoi proverbi, le sue osservazioni avevano un fascino che andava oltre ogni moralismo, ogni insegnamento pedagogico, ogni subdolo catechismo. Ci seducevano i titoletti affilati dai caratteri malfermi, i minuscoli intarsi di detti, osservazioni, noterelle, ma soprattutto le immagini, che parevano, già allora, appartenere a un'altra epoca. Ecco, qui ho avuto una sorpresa. Essendo io umbro, il calendario di Frate Indovino pensavo che attenesse alla mia terra, alla mia esperienza. A me lo portava fresco di stampa un frate vero, un frate cercatore, si chiamava Fra Felice, veniva da noi a prendere l'olio, il vino, quando era stagione, a mettere le mani sul culo alle serve, alle contadine, quindi quella era la sua funzione. Ma Marco Senaldi, critico d'arte, studioso di filosofia, lo ha collocato fra gli oggetti di ricordo comune. Mi spiega meglio come mai Frate Indovino, che io pensavo fosse una cosa soltanto che apparteneva a una ristretta cerchia di civiltà rurale, contadina, umbra, invece è diventato un elemento nazionale? Questa è una delle tante contraddizioni dell'Italia, no? Cioè il fatto di avere questa duplice anima, da un lato queste radici appunto contadine, che però poi alla fine sono quelle che noi vorremmo nascondere, ma in effetti sono... No, io ne vado fiero. Mentre parlo con lei, ho cercato Frate Indovino su Google Immagini e mi si è aperta una pagina a grandezza reale, con la bisaccia di Frate Indovino, con il lunario, questo giorno travasate il vino. Ma chi travasa più il vino? Eppure Frate Indovino lo vedo nelle edicole anche, non so, qui al centro di Roma. Io credo che abbia comunque ancora un grande successo, ma forse proprio per questo fatto di essere al di là dei tempi. Per esempio, adesso guardandolo, appunto, lei mi ha tirato in ballo come critico d'arte, come grafica è totalmente superato, no? Richiama i fatti del giorno, quella famosa rubrica di Famiglia Cristiana, che credo che qualcuno si... Sì, però un'iconografia che fa parte della nostra... è il passo successivo alle copertine di Walter Molino della Domenica del Corriere. Esatto, di Beltrame, sì. Sì, ma Beltrame era ancora prima, nel senso che a quello lentamente poi ci siamo abituati alla grafica contemporanea, alla pagina delle vignette di un giornale e via dicendo. Frate Indovino aveva un argomento, ogni anno era un argomento, quindi era monografico. E aveva sempre questo senso un po' di brutale e ironica riflessione sulla modernità. Frate Indovino naturalmente era un antiluddista per eccellenza, lui era per i vecchi rimedi di una volta, era quasi mezzo stregone, astrologo, poi è morto, era un fraticello che realmente abitava vicino alla stazione di Perugia, fece la fortuna della sua confraternita con questa idea, poi lui se n'è andato, ma vedo che il calendario di Frate Indovino, come tutti i prodotti eterni che hanno segnato il nostro appartenere comunque a una civilizzazione, ancora è vivo e vegeto, anzi lo vedo digitalizzato davanti a me. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.